Vorrei parlarvi oggi del non fare. Che il non fare nella cultura di oggi è la peggiore delle bestemmie, contro il Dio economia, contro il Dio del progresso continuo. Non fare per fare di più. Non studiare per conoscere di più. Non pensare per pensare di più, per pensare meglio. Sto parlando di paradossi, cioè dico di non fare per fare, non pensare per pensare, non occuparsi del futuro per occuparsene. Sono paradossi perché la frase nega se stessa, la prima parte della frase dice una cosa, la seconda ne dice un'altra. Nel nostro linguaggio questo è quasi incomprensibile, perché il nostro è un linguaggio per concetti chiari e distinti. Un conto è il fare, un conto è il non fare. Il nostro linguaggio risente di che cosa? Di una ignoranza profonda di che cos'è l'essere e della distinzione tra ego e anima o tra piccola e grande mente. Più la piccola mente si dà da fare, meno in realtà io faccio, cioè meno la grande mente è in azione. Più la piccola mente studia, meno la grande mente è in azione e studia e conosce. Abbiamo visto ieri insieme un video sulla scuola, in cui si è visto, in quel video meraviglioso, andatelo a vedere, scuola, nel sito, in cui si vede che i bambini all'inizio della loro vita, per esempio quando sono piccoli, hanno un punteggio molto alto nel pensiero divergente, che è la base della creatività, cioè di essere umani. Dopodiché passano gli anni. E che cosa cambia nei bambini? Che il punteggio nel pensiero divergente si riduce drasticamente, quindi si riduce la creatività, quindi si riduce l'energia vitale. Che cosa ha in comune tutti i bambini, di qualunque latitudine, di qualunque famiglia? Come mai? Tutti vanno a scuola. Allora, la scuola è in grado di ridurre il pensiero divergente, cioè la base della creatività umana. Allora è una cattiva scuola, è un'ottima scuola ai fini di preparare le persone a diventare schiavi salariati. Nessuna persona con un potente pensiero divergente, con una grande creatività, può fare lo schiavo salariato senza soffrire a modo tale che a un certo punto la smette, farà qualunque altra cosa. Gli altri si adattano. E siccome l'elite hanno, l'elite del potere, le elite economiche e finanziarie, hanno interesse a generare, ad avere a disposizione un esercito di schiavi salariati, e quindi la scuola serve a quello, quindi è perfetta così com'è. Adesso vediamo da un altro punto di vista. Io credevo di essere uscito dal discorso del fare, pensavo di non occuparmi tanto, invece, e credevo di aver costruito un'associazione in cui questo non avvenisse, invece no. L'Aleph, come tutte le associazioni, come tutte le organizzazioni, parte con un obiettivo, con una mission, dopodiché la mission va in gran parte perduta lungo il terreno. E ho pensato che fossero i miei collaboratori che sbagliavano, ma poi mi sono reso conto che prima a sbagliare sono sempre io, come al solito. Perché per me la distinzione tra fare e non fare era chiara fino a un certo punto. Faccio un esempio concreto così ci capiamo. Dunque, stiamo per andare a fare una giornata sulla musica, sull'improvvisazione musicale, sul dialogo sonoro, qui vicino, andiamo in una bella sala. Una mattina mi sveglio e dico sì, certo, dobbiamo andare là e a me piace moltissimo fare questa attività, ma mi viene in mente che devo portare delle casse acustiche, delle casse di uno stereo che sono molto pesanti, collegarle ai cavi, portare un mixer, portare i microfoni, portare la tastiera, portare tutta una serie di aggeggi che non finiscono più. Questo naturalmente uno può dire, è pigrizia, fallo e non ci pensare più, infatti è possibile fare così. Ma c'è una parte di me che dice, ma sono essenziali questi mezzi per fare musica? Faccio solo un esempio. Solo un secolo fa queste robe non esistevano e forse non esisteva la musica. Forse Mozart non è riuscito a comporre perché non c'era il microfono, non c'era il mixer, non c'erano i registratori. Forse Beethoven non riusciva. No. Faccio un'altra digressione. È venuto da me l'altro giorno un accordatore, io ho scoperto che questo accordatore di famiglia, accordatore, riparatore di pianoforti da 7 generazioni, quindi ha una certa tradizione alle spalle, credo che sia l'unica Genova che ha questo. E abbiamo conversato sui pianoforti di oggi e lui mi ha detto: guarda che ormai i pianoforti non si fanno più come una volta. Ormai il mondo è invaso dai pianoforti cinesi e giapponesi, cioè fatti a risparmio. Naturalmente c'è un risparmio che va a incidere sulla qualità del suono. Quindi pochissime marche ormai continuano e forse nemmeno queste li fanno come una volta. E certo dal punto di vista estetico sono uguali, ma anche un violino di fabbrica, un violino Stradivarius più o meno, visto da una certa distanza, sono assolutamente identici. E dov'è la differenza tra un violino Stradivario e un violino di fabbrica? Beh, che il violino Stradivario ha la capacità di, con le stesse corde, quindi con lo stesso, tutto uguale, però quelle corde vibrando sul violino riescono ad attivare una serie di armonici che su un violino di fabbrica non riescono. E questo è dovuto a che cosa? Alla coerenza. Cioè riescono a, il violino Stradivarius è un violino che genera coerenza nel suono e quindi una quantità di armonici che un violino normale non è. Lo stesso vale per i pianoforti. Oggi mi diceva questo amico, ormai è diventato un amico, questo Davide, e dice: oggi le persone vengono in negozio per comprare, tra l'altro loro vendono solo pianoforti e solo e non pianoforti giapponesi o di altre marche, solo pianoforti di che hanno ancora validità come acusticamente validi. E lui dice: ormai le persone chiedono solo tastiere oppure pianoforti a mezza coda ma molto scadenti. Quindi significa che la percezione acustica delle persone oggi si è ampiamente degradata. Poco tempo fa ho fatto l'esperienza di andare a un conservatorio del sud Italia, non dico quale, così. E mi aspettavo che almeno laggiù, no, ci fosse strumenti e condizioni per poter produrre musica. Sono stato ampiamente deluso perché tutte le stanze del conservatorio avevano un riverbero come se i pianoforti avessero non solo il pedale sempre schiacciato, ma addirittura avessero un amplificatore che deformasse, distorcesse. E mi sono chiesto: ma come si fa a imparare a insegnare musica lì dentro? E se lo si può fare vuol dire che abbiamo una decadenza, siamo finiti ormai nella musica a non sentire più il suono, ma il suono è il fondamento della musica. Allora, il suono, così come è costruito, è relazione tra la fonte e l'orecchio. L'orecchio può percepire il suono perché si mette in relazione con le onde sonore. Ma è poi la stessa cosa che succede nelle relazioni umane. Nelle relazioni umane, oggi sappiamo che il centro del cuore emana delle radiazioni elettromagnetiche che arrivano ad alcuni metri di distanza. E queste radiazioni elettromagnetiche arrivano al cervello delle persone, al cuore delle persone, e influiscono le persone intorno. Che strano dire, ma oggi non ci occupiamo di queste cose. Noi crediamo di essere felici o infelici in base agli oggetti che possediamo, alle attività che facciamo. Cioè noi abbiamo imparato a portare attenzione a tutto tranne che alla qualità delle relazioni. Ma è nella qualità delle relazioni dove puoi trovare la felicità o l'infelicità. Gli oggetti sono accessori. Allora, ritornando a quella mattina, ho ripensato, ma è proprio necessario che io faccia il trasportatore con tutti quegli oggetti che poi devo mettere gli spinotti che non funzionano perché ce n'è sempre uno che non va, che uno che fischia. E quindi mettermi nella condizione di avere stress, mentre ciò che serve nella musica è avere il cuore veramente aperto, essere in contatto con gli altri, utilizzando qualunque cosa, al limite solo la voce. Perché la voce da cosa dipende? Funziona più o meno bene, piena di armoniche, a seconda che il corpo sia coerente. E il corpo è tanto più coerente quanto più il centro del cuore è aperto. Quindi rinvia tutta la tematica del centro del cuore, del cervello del cuore, della coerenza cardiaca, che oggi finalmente possiamo comprendere anche a livello scientifico. E allora mi sono detto: non farò niente di tutto questo. Arriveranno le persone, creeremo una relazione profonda con le persone e da questa relazione faremo musica. Allora sarà la musica che ho sempre desiderato. Altrimenti sarà una delle tante cose che facciamo e più ne facciamo, meno facciamo. Cioè facciamo di più per l'ego e meno per l'anima. Ma questo vale, per tutte le attività. Io in questo periodo ho questa passione, lo scrivere. Mi alzo al mattino, c'ho almeno 3-4 cose, dovrei scrivere 3 saggi al giorno. Ma è chiaro che se mi ci faccio prendere troppo entro in stress. E se entro in stress, che cosa produco? Produco dallo stress, cioè da una situazione di non coerenza, e le parole ne risentono. Ma noi non abbiamo bisogno di tante parole, ne abbiamo bisogno di poche, quindi meno parole perché arrivino più parole, meno scritti perché arrivino più scritti, meno comunicazione perché arrivi più comunicazione. E mi rifaccio all'insegnamento di Angela Volpini, che lei estremizza il concetto di comunicazione. È vera comunicazione quella in cui ci comunichiamo, io comunico chi sono. Quindi non è la quantità delle parole, quella è figlia dell'ego, ma sono le parole che hanno le loro radici nella verità di chi sono io e nei miei sentimenti, che sono parole con cui io comunico me stesso. E sono da queste parole che può nascere una relazione d'amore, che non è solo quella tra un uomo e una donna per andare a letto assieme. Le relazioni d'amore sono le relazioni che un essere umano sano, non contaminato dalla civiltà della decadenza, è in grado di instaurare in qualunque situazione, con le diverse persone, con gli animali, con le piante, con gli oggetti. E questa relazione è in primo luogo una relazione di rispetto e di ascolto che parte dall'anima. Un gruppo di messicani stava portando delle attrezzature in cima a un monte per conto di alcuni scienziati che dovevano fare degli esperimenti. A un certo punto i messicani si fermano, depositano le casse e aspettano. Gli scienziati non riescono a capire, provano a parlare con loro, ma loro non rispondono. Quando finalmente loro riprendono il cammino, alla fine arrivano in vetta, uno degli scienziati si avvicina al capo di questi portatori e dice: "Senti, mi toglie una curiosità adesso, ma perché vi siete fermati?" E lui rispose: "Ci siamo fermati perché eravamo andati troppo in fretta e le nostre anime erano rimaste indietro. E allora abbiamo aspettato che le nostre anime ci raggiungessero." Ora, noi in Occidente abbiamo avuto l'orgoglio di considerare primitive le popolazioni che pensavano così, cioè soppesavano la realtà tenendo conto di ciò che è importante. E abbiamo considerato inferiori le donne, che proprio perché allevano i bambini sono in contatto con la vita di più degli uomini, perché gli uomini possono perdersi nell'astrazione, ma una donna, se vuole davvero avere un rapporto con un bambino, deve ritornare alle sorgenti dell'essere. Quindi il maschile senza il femminile, il fare senza l'anima, sono il guaio della nostra civiltà. Possiamo ricominciare? Certo, ricominciamo da adesso.